Allora, senti, il numero uno è tu sa che non spiace. Ora sbampo, solo non rimane. Ah, sbampo no, paio. Oh, si può, so, si può, io sono bene per te. Sì, può. Io qui trovo anche l'estate dove ci parlo. No, io sto parlando a casa 4 giorni fa. Forse sai che gli devi dire a questo paesano che l'erestatina si può prendere. Adesso tutto. Ah, che diano uno sbam sozzo di là. Imbattimo una strada. Oh, fra. Fra, ti posso dire una cosa? Ma guarda qua, io ti voglio bene, ti rispetto quanto la mia cacata, no? Allora, senti un attimo, io lo sai che io ti ho sempre Buttato. dato, no? Ti ho sempre dato qualcosa, no? Ti ho dato sempre qualcosa, digli a questo ragazzo. No, ma dite a questo, no? Ha detto che ci vediamo in strada. Se non ci vediamo, dite che accendiamo la luce. Oh no? Ma vabbè, ma c'è sempre l'arrestatina, no? Tipo l'arrestatina del pane, il refugo del pane, c'è. Devo mangiare questo blu. No? Ma non è che ti porta una roba per regalo di portarci così, cammello. Ma almeno un bracciolo di marcio non è buono. Fra, ma sono contento per te, ti giuro. Guarda, se mi metto metti pure un matrimonio. Ti faccio un compare meglio. O non vuoi mi metti? Dove sono? Dite che sono a casa mia. Non scaso ne a casa, più aspetto fuori vanno a cancello. Ecco, ho capito chi è, io non so ma nemmeno chi è. Se è Marando. E Dinzi Bastiano! E Dinzi veniva in battitiano a casa, Dinzi! Un pedaccino sull'osso dei morti! No, non la prima che mi ha detto un barcone. Se sei Marando, è in Germania. Eh? Adesso è qua, lo so. Sua cognata ha una panda rossa. Sua cognata ha una panda rossa. E dici se sei, che ambattiamo in strada. Ma comunque mi fa piacere, hai trovato un bel ragazzo. E saggio che mi dici, ma è parola da non casivo, saggio. Prima era che cosa, che stella, che le danni i condo fuori. Cucù, quella zitta. Cucco era zitto. Ah, ma a comprare Natale o vite? Puro so compleanno io. Ma a comprare Natale o vite contento? O sono disfatto. Mizzica, fra, hai trovato un bel ragazzo. Ma come scendo con il pullman? Allora scende a un cotto. Andava a macchina. Mandava a potenza, andavi. Mandava a potenza. Ah, sì, parola. Ho un mio, per la rassa. Volevano andare in Sebastian, quello di ieri è stato Un pedaggino, 30 punti, sono non rimane, io sapevo, io andavo a parte. Se sei marrando, non mi arrivavano a testa questo pezzo se sei marrando. Immagina tutto quel pedaggino, sono non rimane. Questo che io ho compleanno, pure so. Sono onesti, mamma mia, sono mica suo sapo, ciccio, monza, supo bene, mamma con mazza. Ora sono noi, mamma può un battiato con di fuori. Cavolo, c'è, non è finito, forse non è finito. Mettono a pensare tutti, ma... Dirvi i toni. Tuo paese, sì. Ma sentite di cos'è? O se, mi senti? Ti posso dire una cosa, tu sai che te è etero spetto, no? Ma o tu sai che te lo spetto, no? Ma ti posso dire una cosa, sono onesti, mamma che tu ti sta cogliendo solo il restatino, oggi. Etero spetto, perché te lo spetto per paesano? A me non mi interessa, cugino, a me non faccio piacere che tu sei questo qui. E a cosa sei, pure che è a te che voglio mamma a cugino, no? Pur essendo che è a te a me sa che cazzo mondo questi dico. Voglio mamma a te che voglio mamma a cugino. E adesso tutta la casa sei tutto una mia, non faccio piacere, ma però se voglio mamma a te, non sei che a Francesco con mia, se si casa in braccio da mezzo all'anno. Ma sentite, dico, se potete con una cosa, perché è da rispetto per il paese, perché non è portare pazzia. Tu le chiedi ora, poi dopo pure mare... Oh, se, sai che facciamo, se. E ora sono a casa, andate 10 minuti e andiamo di moglie mia, se vuoi. Va, non hai il problema, Cuccio. Ma non hai problema, Cuccio. Hanno pure a posto, come fai a andare? Andavo, non capisci che bacio. Ma sì, ma guarda a casa, se sono onesti, ma mia, sono... Ti posso dire una cosa? Voglio dire una cosa che ti parlo seriamente, tu ti appoggio tutto a lei, non devo dire in presenza, parlami per sempre. Cuccio, perché frate è un bravo quadrato e tutto. Sono onesti, ma che farta andare sull'osso di morte che è rispettoso e tutto, ma perché sono un'unica casa pura farta che tu sei stato cucchista oggi? Pensa che farta ti spacchi e mossa, perché non è non fu quattro per me, non è stato manco quattro per te, perché questa gioca sai chi è, sta una sciarrera sull'osso di morte. Ma che stanno così, che sta con me a Maria? Basta, abbassate la sua moglie, cavolo, non è questo cane altro pari, ma comunque. Oh, se andiamo di mannetto 10 minuti, eh. Ciao, ciao. Ma se tu vuoi che ne faccia? Mentre tu vuoi che ne faccia, ne faccia. Sull'anima di morte che ho fatto tutto, che ho fatto. Sono onestima. Apposta sempre con il cermolare in Harici. Figlia, questo che io comprendo. Per tutta la casa, dove ti vuole andare? Oh, ma vedi, intanto ho trovato una... Ora ho bruciato pure io. Sponsor comune, Sono arresti, ma ancora si può scrivere su proprio sponsor. Sono stati morti. Ora comincia il mio impiccio. Sono Nabond, sai che fai? Quando ho parlato di monta, posso proprio bene, ma che non dovuto ti pia, ma fai... E tu? Ah, sto stavo...